Non so quanto tempo sia passato da quando le prime pagine dei giornali erano piene di titoli sulla distanza che intercorre tra il paese legale e il paese reale. E immagino che tutti ricordino come con questi due aggettivi si intendesse porre in evidenza la discrepanza fra i dettami della legge e il modo di vivere degli italiani. Sopravanzato in importanza da innumerevoli nuovi argomenti, il discorso è scomparso dalle prime pagine e a quanto ne so anche dal dibattito politico. La distinzione però mi pare ancora attuale, almeno in relazione allo squallore di Tangentopoli. Ora, se categorizziamo questi ultimi eventi in base ai paradigmi del paese legale, troviamo che vi sono partiti di governo che hanno scientemente gestito l'assegnazione di appalti per i lavori pubblici al fine di trarne un utile illegale. Se consideriamo che questo sistema di assegnazioni era attuato con il beneplacito e spesso sotto la direzione delle segreterie di partito, potremmo concludere, che quei partiti il cui segretario politico è inquisito come mandante nella riscossione di tangenti siano assimilabili a quelle che il nostro ordinamento definisce associazione delinquere di stampo mafioso. Per fortuna vi è poi il paese reale. Qui gli inquirenti formulano l'accusa di associazione a delinquere solo in presenza di prove sicure, prove che ovviamente è più agevole trovare per gli esecutori che per i mandanti. E intanto chiedono al governo di ideare una soluzione politica per chiudere l'argomento, salvando se non la faccia ai governanti, almeno la solidità della Repubblica. Ma ai nostri governanti il prudente riguardo della magistratura non basta, ed eccoli compatti a accusare gli inquirenti di eccessivo zelo nell'applicazione delle leggi, eccoli lamentarsi della disinvoltura con cui vengono emessi i mandati di cattura nei loro confronti e gridare allo scandalo se qualcuno di loro viene ripreso in manette da qualche rete televisiva. Stupefatti e amareggiati nel constatare che quelle leggi che loro stessi hanno ideato, formulato e votato possono essere impunemente applicate anche a loro. Certo, la tendenza a pensare provvedimenti cui solo gli altri debbono essere soggetti è innegabilmente presente in ognuno di noi e si manifesta inesorabilmente ogni qualvolta siamo vittime dei rigori della legge. Però, a mio avviso, la rivendicazione dello pseudo diritto ad essere giudicati con criteri diversi da quelli della legge, che al di là dei giudizi di merito è valida per tutti gli italiani, è ben più grave della squallida storia di corruzione di cui sono accusati. In fondo, questo atteggiamento può significare soltanto due cose: o un'intrinseca superiorità dell'uomo politico rispetto all'uomo comune, peraltro abbastanza difficile da provare di fronte alle meschinità che quotidianamente apprendiamo dalla stampa sul loro conto, o l'assoluta incoscienza dei significati delle frasi che con la loro approvazione questi signori hanno reso legge. Ognuno scelga poi l'ipotesi che più gli aggrada, però non c'è molto da stare allegri.